24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Spagna è rivolta contro il piano Rajoy, Italia, spread BTP Bund a 500 punti. Il governo iberico dà l'allarme sui conti nel giorno in cui Madrid incassa il sì dell'Eurogruppo al piano di aiuti per le banche. Lo spread tra i bonus e i Bund tedeschi ha toccato i 601 punti, nuovo record storico. Spread ai massimi anche in Italia, dove ha toccato i 500 punti, mentre Piazza Affari è affondata a quasi meno 5%. Sentenza della Corte di Giustizia Europea. L'Italia ha violato le norme comunitarie su raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane. E sono circa 1,3 miliardi di euro di finanziamenti regionali europei 2007-2013 destinati al nostro paese, fino ad oggi bloccati da Bruxelles. La crisi in Siria. Lunedì i ministri degli esteri dell'Unione discuteranno di sanzioni. Benvenuti da Paolo Panceri a questa nuova edizione di 24 ore in Europa. Si aggrava il quadro dei mercati in Europa nonostante il via libera dell'Eurogruppo sul piano di aiuti a favore della Spagna. Aumentano le pressioni sui titoli di Stato di Spagna e Italia, mentre le borse hanno accentuato in chiusura i ribassi, anche Wall Street si mantiene in rosso. L'Eurogruppo, lo dicevamo, ha intanto approvato il piano di aiuti alla Spagna da 100 miliardi. Ci racconti i dettagli da Bruxelles Antonio Poglio Sanimbeni di Radio Cor. Ha appunto deciso il via libera al prestito di 100 miliardi, 30 miliardi arriveranno subito fra pochi giorni entro la fine del mese per eventuali interventi immediati e urgenti. Il problema è che si saprà soltanto fra circa un mese qual è il reale bisogno banca per banca, quale sarà il bisogno di capitale da rifondere. L'altra decisione riguarda la conferma che sarà possibile nel caso in cui la Spagna non utilizzerà tutti i 100 miliardi per la ricapitalizzazione delle banche, potrà usare la parte restante per altri interventi, per esempio comprare titoli di Stato sul mercato secondario o primario, ma naturalmente questo potrà farlo soltanto se ci sarà un accordo specifico e ci sarà un nuovo negoziato con l'Eurogruppo. Il via libera dell'Eurogruppo al piano di aiuti per le banche spagnole non ha tranquillizzato i mercati. Madrid ha ceduto il 5,82%, Parigi ha perso 2,14%, Francoforte l'1,9%, Londra l'1,09%. A Piazza Affari FTSE MIB ha chiuso in calo del 4,38% dopo aver sfiorato anche il 5% di perdita. L'allargamento dello spread tra BTP e Bund è attorno ai 500 punti base. Chiusura di settimana nel segno delle vendite per le borse europee, che hanno terminato la seduta in pesante ribasso mentre torna ad acuirsi la crisi del debito. La peggiore è stata Madrid, meno 5,8%, dopo il via libera dell'Eurogruppo al piano di aiuti per le banche spagnole. Male anche Piazza Affari, dove il FTSE Share ha perso il 3,79% e il FTSE MIB il 4,38%. A pesare è stata in primo luogo la debacle dei titoli finanziari, colpiti dall'allargamento dello spread tra BTP e Bund a un soffio da quota 500 punti base. BPER ha perso oltre il 10%, le generali l'8,8% e il Monte dei Paschi di Siena l'8,5%. Ha continuato a scendere Telecom Italia, meno 5,6%, dopo che le autorità brasiliane ne hanno bloccato l'espansione nel paese sudamericano a causa dei mancati investimenti. Nel resto del listino bene Unipol più 8,2% e Fondiaria Sai più 18,2%, dopo che la compagnia bolognese ha conquistato il controllo della ex galassia Ligresti. Paolo Parmento da Radio Cor per Radio 24, Sole 24 Ore. Il governo spagnolo, dopo gli scontri e le proteste della scorsa notte contro il piano di austerity, ha intanto peggiorato le previsioni economiche per il 2013, anno in cui continuerà la recessione, con una caduta del prodotto interno lordo dello 0,5% rispetto alla lieve crescita prevista dello 0,2%. Le nuove previsioni sono in linea con quelle del Fondo Monetario Internazionale, che fissano una ripresa dell'economia iberica soltanto nel 2014. In Italia Mario Monti non nasconde la gravità della situazione. Il contagio è in corso, ha detto il Premier durante la conferenza stampa tenuta oggi a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri. Non ci saranno nuove manovre né una patrimoniale. Le rassicurazioni di Mario Monti arrivano in un venerdì di tensione sui mercati. La situazione resta preoccupante, rileva il Presidente del Consiglio, secondo cui il contagio nell'area euro è in corso. Il contagio è quel disagio che attraverso i mercati colpisce in termini di maggiore incertezza, minore fiducia nella irreversibile integrità dell'euro, maggiori tassi di interesse paesi che sono sullo stesso carro. Deluso Monti sottolinea che rispetto al precedente governo il calo dello spread c'è stato, ma è inferiore alle aspettative anche a causa delle incertezze del quadro politico italiano. Ai partiti la sua richiesta è quella di non allentare l'impegno sulla via delle riforme. L'obiettivo resta quello di superare le difficoltà con le nostre forze, senza aiuti dall'Europa, sottolinea Monti al termine del Consiglio dei Ministri, che oggi ha deciso di non procedere con l'accorpamento delle festività, fissati invece i criteri per il riordino delle province, che dovranno avere almeno 350.000 abitanti e una superficie superiore ai 2.500 km². Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ma chi sono i nuovi indignati spagnoli? Sentiamo. Professori, medici, poliziotti, pompieri, postini sono i dipendenti statali, i nuovi indignados, scesi in piazza nelle principali città spagnole per protestare contro le misure di austerity decise dal governo. Soppressione della tredicesima e di parte del sostegno ai disoccupati, riduzione di ferie e permessi oltre all'aumento dell'IVA. Mani in alto, questo è un assalto, lo slogan divenuto ormai un grido di battaglia nei diversi cortei in cui è diventato protagonista la classe media. I dipendenti pubblici spagnoli guadagnano in media tra i 1.000 e i 2.500 euro al mese. I loro stipendi negli ultimi due anni sono stati tagliati tre volte, l'ultima la settimana scorsa, meno 7%. E a Natale non prenderanno la tredicesima. Intanto il loro potere d'acquisto continua a calare. L'IVA è salita dal 18 al 21%. La bolletta della luce costa 36 euro in più al mese. Le tasse universitarie dei figli sono cresciute del 50% e l'assistenza sanitaria per gli anziani è stata tagliata. Siamo al limite, ci stanno togliendo tutto, abbiamo toccato il fondo, si legge sugli striscioni della protesta. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuova indagine della Procura di Trani sulla finanza. I magistrati hanno aperto un'inchiesta penale sui tassi Euribor. Dopo Stati Uniti e Regno Unito, ora anche in Italia si indaga sui tassi Euribor. L'inchiesta, come già quella sulle agenzie di rating, è in mano alla Procura di Trani, che ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti, ipotizzando i reati di truffa aggravata e grave manipolazione dei mercati. Un'inchiesta che nasce dalla denuncia presentata nei giorni scorsi negli uffici di diverse procure dalle associazioni dei consumatori Adusbef e Feder Consumatori, denuncia raccolta peraltro a Trani proprio dal PM Michele Ruggero, lo stesso che indaga sulle agenzie di rating, che ora ha delegato la Guardia di Finanza per le acquisizioni di rito e ha già costituito un pool di esperti per accertare quelle che vengono definite in una nota delle associazioni gravissime manipolazioni, i cui danni agli italiani che hanno un mutuo sono stimati da Adusbef in almeno 3 miliardi di euro. Le autorità di vigilanza europea, britanniche e statunitensi da mesi sono già al lavoro per accertare denunce analoghe in inchieste che coinvolgono di fatto tutte le principali banche mondiali. Nei giorni scorsi c'è stata la decapitazione dei vertici di Barclays, il colosso londinese del credito che per primo ha patteggiato una multa con le autorità di controllo. Ora Trani vuole vederci chiaro anche in Italia. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che l'Italia ha violato le norme comunitarie sulla raccolta, trattamento e scarico delle acque reflue urbane, non rispettando i tempi stabiliti per la loro applicazione. I giudici comunitari hanno quindi dato ragione alla Commissione Europea, che nel 2009 ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto delle norme in decine di comuni italiani, con una popolazione uguale o superiore a 15.000 abitanti. Circa 100 municipi sparsi in tutto il paese, da Reggio Calabria a Trieste, dalla Pallo a Capri, da Frascati a Porto Cesareo, da Cefalù a Ragusa, dovranno quindi avviare le opere necessarie per mettersi in regola con la direttiva, cioè prevedere prima dello scarico il trattamento biologico. Sono invece 8 le regioni, Calabria, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Liguria, sul cui territorio si trovano città e paesi ancora senza rete fognaria e impianti di trattamento adeguati sia alle normali condizioni climatiche sia ai carichi eccezionali derivanti da fattori stagionali, in primo luogo l'afflusso di turisti. Ancora brutte notizie per l'Italia dall'Unione Europea. Ammontano infatti a circa 1,3 miliardi di euro di finanziamenti regionali europei del periodo 2007-2013 destinati al nostro paese, fino ad oggi bloccati da Bruxelles. Tra questi fondi ci sono i pagamenti interrotti dagli uffici per la politica regionale della Commissione per la Sicilia, 180 milioni, Sardegna, 140, per il programma Poli Culturali Turismo, 108 milioni e per la Calabria, 190 milioni. Non è solo la Sicilia a essere sottoposta al blocco dei fondi europei 2007-2013. Nella lista nera ci sono anche Calabria, Sardegna e, forse ancora per poco, la Campania, mentre l'Abruzzo ha ricevuto un primo avvertimento. Rafforzamento delle sanzioni contro la Siria e preparazione di un piano per un'eventuale crisi umanitaria. Su questo si esprimeranno i ministri degli esteri dell'Unione lunedì a Bruxelles. I 27 vorrebbero rafforzare l'embargo delle armi contro la Siria, autorizzando ispezioni di navi aeree sospettati di violarlo. L'eventualità di una crisi umanitaria è stata aggiunta in agenda su richiesta di Cipro, che, data la posizione geografica, si prepara a gestire il rientro dei cittadini stranieri in Siria e a far fronte all'arrivo di migliaia di rifugiati dalla Siria stessa. Non si tratta che di un'eventualità, ma Cipro, che detiene la presidenza di turno dell'Unione, ritiene sia meglio avere un primo dibattito sulle possibili iniziative e sugli strumenti a disposizione. Ed è tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Un saluto da Daniele Teruzzi, regia tecnica, e da Paolo Panceni, studio. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.